te, ma non so perché. Una signora che importanza ha? L'unico modo per tentare di resistere è non pensare a te. Quest'aria di maggio che batte sul petto, parliamo, io ti amo. Mi sorprendi ogni volta che tremi, non dirmi di no. Dopo tutto, questo caldo d'agosto mi dà un po' la testa, parliamo. Mi scusi signora, ho sbagliato persona. E mi metto nudo coi miei dubbi e con i miei, perché quando penso a te so che non è facile capire una persona che non ha più voglia di parlare neanche un po' di sé. Chissà poi perché sono maniaco. C'è il sole a dicembre perché forse ha preso il tuo posto. Sono un mostro, non è vero, è che sono sincero. Ora basta, la smetto. Se ho sbagliato è perché sono stanco e distrutto, lo ammetto. Ma ti amavo, me ne vado lontano da te, dai miei tristi perché. Per fortuna ho portato con me l'impermeabile.